Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera, diciamo due volte, poi spieghiamo perché, a Francesco Boiari. Buonasera a tutti, buonasera a lei. Francesco Boiari, due volte perché questa sera è con noi per parlarci di due cose, di un libro che ha scritto, soprattutto ha curato, a cura di Francesco Boiari appunto, Chi comanda è solo, Sergio Marchionne in parole sue, edito da Rizzoli Etas, ma Francesco Boiari è anche editore, ha due piccole ma significative case editrici e di questo parleremo tra poco. Iniziamo da Marchionne, un libro su Marchionne, anzi un libro di Marchionne, perché si può dire così, Francesco Boiari? È un libro di Marchionne, io mi sono limitato a fare quello che nel mondo del cinema si chiamerebbe il montaggio, ho raccolto, smontato e rimontato 8 anni di discorsi, interventi, interviste ufficiali di Marchionne, perché è un personaggio di cui tutti parlano, ma di cui si sa relativamente poco al di là degli slogan che girano e che anche lui ci mette del suo, come si dice, insomma, a far sì che giri un'immagine da manager duro e cattivo. Il libro si inserisce in una collana che ha già presentato con la stessa formula il pensiero di Steve Jobs, era Steve Jobs in parole sue, e questo è Sergio Marchionne in parole sue, quindi io ho elaborato, raccolto, appunto rimontato tutto quello che Marchionne ha detto e scritto dal 2004 a oggi e ne ho ricavato quello che chiamo il dizionario Marchionne, sono circa 200 voci tematiche, però le parole sono di Marchionne, non sono mie, io mi sono limitato appunto a fare un lavoro di presentazione, analisi, per cercare di dare, questo non è un libro come scrivo pro o contro Sergio Marchionne, è un libro per cercare di capire Sergio Marchionne, che io definisco quel marziano che nel giugno 2004 sbarcò con la sua astronave al Lingotto, sconosciuto a tutti, e da allora cominciò la sua, chiamiamola, rivoluzione nel mondo Fiat e nel mondo dell'auto, perché di rivoluzione si tratta. Ecco, quindi si tratta di un libro che ha molte citazioni, l'alfabeto Marchionne appunto, dall'A alla Z, due vie, un miglio dall'inferno, abruzzesi, aggregazioni, per passare attraverso finanza, ghigliottina, Gianni Agnelli, politica, industria e arrivare fino alla Z di Zorba il greco. Quindi tanti elementi, tante citazioni di Marchionne con un filo conduttore, quello di cercare di capire questa personalità, questo personaggio. Ma in breve, che cosa ne esce? Come esce questo Marchionne, magari al di là appunto degli stereotipi che lo vedono come la persona informale, che non mette mai la cravatta, la persona che vuole rompere con i sindacati per portare avanti la sua idea, la persona che comunque ha salvato la Fiat nel 2004. Ne esce un personaggio innanzitutto che dal 2004 a oggi dice le stesse cose sostanzialmente, non ha cambiato approccio verso i fondamentali dell'economia, della produzione, del management e della gestione d'impresa, le dice in contesti diversi ma sostanzialmente sono le stesse cose, è un personaggio di cui colpisce il fatto di star fuori degli schemi, un personaggio che ragiona e che è come se parlasse, ragionasse in un'altra lingua, a volte si incontrano persone e dice ma io penso in inglese, ecco lui pensa in un'altra lingua concettualmente, è fuori dagli schemi del bizantinismo italiano che è fatto di riunioni, contro riunioni, mille riunioni, incontri eccetera, lui è un decisionista che si assume le decisioni in prima persona, da cui chi comanda è solo, ma poi il fatto che lui antropologicamente, ricordate quando Berlusconi disse che i giudici erano antropologicamente diversi, ecco io dico che Marchionne è antropologicamente diverso perché lui non è italiano, non è americano, non è canadese, non è svizzero, ma è tutte queste cose insieme, è un mix di culture che sono o totalmente fanno un blended che non è confrontabile con per esempio con la nostra cultura italiana fatta di relazioni, se si legge la voce Salotti dice Salotti io non so nemmeno che cosa siano, per cui è uno che si mette fuori da tutte le congregazioni, le corporazioni, i gruppi eccetera, è un personaggio che va orgoglioso della sua autonomia e indipendenza e lo fa anche con una brutalità di modi che può non piacere a molti. Ecco, lui tra l'altro si vanta delle sue origini abruzzesi, in una di queste citazioni dice l'Abruzzo è la mia terra, sono nato qui a Chieti, proprio parlava, questa citazione è tratta da una cerimonia nell'Università degli Studi di Chieti, sono nato qui a Chieti, qui ho fatto i miei primi 8 anni di scuola e forse se non fossi emigrato in Canada con la mia famiglia all'età di 14 anni avrei frequentato anche questa università. Ecco, interessante che la citazione più breve di questo libro è quella dedicata a Gianni Agnelli. Lo trovavo una persona affascinante, mi interessava soprattutto il suo contorno, ciò che riusciva a muovere con una parola, un gesto. Questa è tratta da un'intervista appunto di Sergio una Marchione. La presentazione dice che lui però non ha mai conosciuto personalmente l'avvocato, per cui lui riferisce sensazioni, riferisce la conoscenza indiretta di Gianni Agnelli, mentre lui ha conosciuto benissimo il fratello Umberto ed è legato soprattutto a Gianluigi Gabetti, che è l'uomo che l'ha portato in Fiat. Ecco, però da questa citazione di Agnelli emerge un po' questa sua tensione verso il potere, questa sua invidia verso un uomo potente. Ecco, questo fatto che però Marchione non sembra voler esercitare un potere, ma piuttosto di voler esercitare, non dico un servizio alla sua azienda, ma di voler far capire che le aziende sono le cose importanti e anche il lavoro all'interno dell'azienda è altrettanto importante. Quindi forse c'è un po' di invidia verso Gianni Agnelli, ma anche una presa di distanza. Ma c'è una voce qui, c'è la voce potere, una intervista a Repubblica dall'ottobre 2007 che dice: il potere non me ne frega assolutamente nulla, rispetto ai ruoli di potere a livello istituzionale, quello sì, ma a me non interessa il potere. La pagina accanto, la voce successiva è pragmatismo. Sembra quasi un fatto che il destino dell'impaginazione di questo libro abbia messo potere e pragmatismo a fronte. Ecco, lui è un pragmatico, se poi il pragmatismo passa anche attraverso il potere sostanzialmente per lui può essere uno strumento per realizzare la sua visione del mondo dell'impresa. Ecco, in questa prospettiva possiamo anche leggere un'altra citazione: apertura al cambiamento, abbiate sempre il coraggio di cambiare voi stessi, cambiare idea, approccio, punto di vista, perché anche l'unico modo per cambiare le cose che non vanno è rendere la vita migliore. Quindi questa apertura al cambiamento è uno dei dati di fondo. Questo vuol dire che il problema è essere coerenti sicuramente con se stessi, però se le situazioni cambiano e sono cambiate. Questo è una delle parole, perché poi abbiamo anche messo un indice analitico delle parole e dei concetti più usata, più citata in questa raccolta, ma le altre parole chiave sono velocità, sono merito, meritocrazia, e poi il concetto di leadership che viene analizzato in varie modalità, e poi le altre parole chiave sono impegno, responsabilità, coraggio, per cui il cambiamento è collegato al coraggio di cambiare, e quindi c'è una visione in cui c'è sì molto pragmatismo, ma anche molto, molto senso, diciamo, della responsabilità verso quello che si fa, verso l'azienda che si fa, e l'azienda, se dice Marchione, su questo credo che siano tutti concordi, è fatta non soltanto degli azionisti, ma è fatta anche dei lavoratori, ed è fatta dei fornitori e dei clienti finali. Tutto questo è facile dirlo quando le cose vanno bene, certo. Meno facile dirlo quando le cose come adesso vanno male. Però io rilevo in questi anni di posizione di Marchione una continuità concettuale che non viene scalfita nemmeno da qualche caduta di stile come quella recente degli ultimi giorni su Firenze, che poteva certo. Francamente risparmiare, ma questo fa parte di un gioco che ormai è diventato un gioco anche mediatico. Molto mediatico, infatti. Allora, chi vuole capire e seguire appunto l'evoluzione anche del pensiero di Marchione può prendere il libro di Francesco Bogliari, curato da Francesco Bogliari. Chi comanda è solo Sergio Marchione, in parole sue, edito da Rizzoli Etas, 252 pagine per 16 euro. E adesso con Francesco Bogliari parliamo di un'altra cosa, che è la sua attività di editore. Editore, quali sono le case editrici che cura Francesco Bogliari? Io sono editore, dopo una lunga carriera di manager editoriale nei gruppi Sole 24 Ore, Mondadori, RCS, mi sono messo in proprio e ho creato nel 2009 Metamorfosi, ho rilevato Metamorfosi, che esisteva già, fondata da Gianni Rizzoni, che ne resta il direttore editoriale. Metamorfosi pubblica libri di argomento letterario, artistico, culturale in genere, è l'editore della celebre agenda letteraria che esce da 22 anni, è uno dei titoli più continui della editoria italiana, un titolo che esce ininterrottamente da 22 anni è veramente una rarità. Poi ho creato l'anno successivo, nel 2010, il marchio Mind, per pubblicare contenuti di economia, politica, scienze sociali in forma sia di saggio sia di manualistica. E recentissimamente, nel senso proprio nelle ultime settimane, ho creato un marchio invece di varia leggera, che si chiama Ink, nel quale pubblico cose più leggere della manualistica satirica, eccetera. È una piccola mini gruppo editoriale totalmente indipendente, nel senso che il capitale è soltanto della mia famiglia e non c'è capitale finanziario o grandi gruppi editoriali dietro. Ecco, ma c'è ancora spazio per un editore? Si leggono ancora libri in Italia? Si legge poco, si legge forse meno, Io ho ragione in termini, io, cioè, nel momento in cui ho deciso di creare questi marchi eccetera, perché ho identificato delle piccole nicchie di mercato. Poi è chiaro che ognuno di noi, ogni azienda, ogni casa editrice deve adeguarsi al mercato anche in termini strutturali, per cui io sto, la mia struttura è una struttura proprio da piccolo editore, da poco più di bottega artigiana, e per cui tengo molto in equilibrio i costi in relazione ai ricavi, e qui diciamo, devo dire grazie a due grandi persone dell'editoria con cui ho lavorato, che mi hanno insegnato questo mestiere. Uno è il compianto Tiziano Barbieri della Sperling & Kupfer, e l'altro è Franco Tatò, che mi hanno insegnato l'attenzione tanto ai contenuti di quello che si va a pubblicare quanto alla organizzazione e l'attenzione ai costi. Ecco, perché comunque c'è bisogno di una editoria divulgativa in Italia, soprattutto sul fronte economico. Seminare sempre bene. Abbiamo avuto peraltro ospite Paolo Savona, che ha realizzato proprio con Maid un libro, Che cos'è l'economia, nelle scorse puntate di Economia in Pagina. Quindi su questo fronte quali saranno i prossimi libri che saranno in libreria della vostra casa editrice, Francesco Bogliari? Dunque, in questa collana dove abbiamo pubblicato il Che cos'è l'economia di Paolo Savona, che è una collana di divulgazione di base sui grandi temi di interesse generale, i prossimi titoli a gennaio saranno Pierluigi Celli, Che cos'è il management, Riccardo Varvelli, Che cos'è l'energia, e poi un paio di mesi dopo uscirà Corrado Ocone, Che cos'è la filosofia, e Francesco Morace, Che cos'è il futuro, un libro particolare sul concetto di futuro dall'antichità a oggi. Sono testi di alta divulgazione, dico divulgazione perché sono scritti per essere letti come fosse il primo libro su quell'argomento, alta perché sono tutti autori ai massimi livelli nelle singole discipline e che sanno anche scrivere in maniera divulgativa, cosa che nell'Accademia Italiana non è molto diffusa. Grazie e in bocca al lupo Francesco Bogliari per questi libri. Ricordo l'editore Mind, appunto di Francesco Bogliari, insieme alle altre collane di Metamorfosi più letterarie. E quindi concludiamo qui, ricordiamo solo il libro di cui abbiamo parlato all'inizio, curato appunto da Francesco Bogliari, Chi comanda è solo Sergio Marchionne in parole sue, edito da Rizzoli Etas. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagine è per la prossima settimana, ma devo ringraziare anche Gianmarco Ferronato in regia e Luca Cremonese in redazione.